questa. Ma come che ti stai la malizia? Non lo dici, Paolo, che piglia questa. Bene che sta sotto tappo. Non faccio mandare, e non guarda che ci mandano il sirino, ci ho perso, messaggi, pigliai un messaggio all'archivio, a fanculo, non sai che messaggio mi ha postito, pur scazzi, brucche. Aggiungerò Dani, e che ho visto, no? In prima potenza. Io non vedo una male, signora su un anno, però non è né tanto affidabile questo strumento carino. Andiamo col cieco in quinta. Però in quinta certo, in quinta è mandata là, qualcosa in più. Però lo stress, ma io sempre capito qui, però in parte di un po' paranzo quando c'è la domanda, non mi preoccupare la mano. Io ma devo stesso, già prima qui da fatta ma devo stesso. Sì, io capoggio. E già non si può girare, non c'è Marcellino, non c'è qualcuno, non c'è nulla. Quindi quanta propagazione. Quindi però con Nord Italia cominciamo a parlare con denti. No, non mi stai mettendo per comodo, ora se lo faccio tu lavoretti nella macchina, poi mi si mette andato con chi pomodoro, mi continuo a fregare tu poi. Poi io faccio un lavoro a 90, vado per il giorno che sono avanti che poi a Catanzaro, domani mattina c'è a Catanzaro. No, ma che non Catanzaro. Uh-huh. E mannaia. Vabbè, l'importante si risolve, dai. E poi il giro si risolve, lo so il giro. Che ti stavo dicendo? Quindi provassi pure con 48. Ah sì sì, ho provato pure con 48, va bene, però con 48 che c'è qualcosina in, forse in modulazione quando vado a parlare. Aspetta, commento. Sì, perché c'è sto doppio modulatore, modulato è normale che caccia giù. Ho visto che schiccia un tavolo display. Attenzione Mimmo Cavallo Ma. Attento zio Mimmo, ascolti qua Antonio Conner, Fabio. Allora tu vai di picche, capite? Tu ora così mi fai di portante di 9. Però se andai vatti ti regolapoli, lasciano un altro po' che c'è. Così ti schiavisci tu la modulazione. Sì, è positivo, no Mimmo, non l'ho io di vatti regolapoli, tanto non ci dici. Ma no, e lei con la io meno la metà, un poco meno. Hola, o mai che chiedo da CTE, che non ero normale, avevo 48, e basta. Alla fine di 100 euro ma lineare. O scordi ora. Mangiavi di mano, va cacciando, perché non fai scordi. Sì, poi si dico, no, c'è su caccia mimo. No, ormai da su così. Fare solo una piccola modifica se caro ma la faccio. Ci metterò un letto bianco ghiaccio. Io voglio originale. Un letto normale, bianco. Normale, originale. E illumina tutto, pure la ninza si vede la luce. Bello bianco ghiaccio, però abbiamo anche su un punto qua, girando, anche su un punto caro, dopo dice che la vita fare, così a papà, la potevamo un caccio che sto trovo giorno cacciava, ci vuole bello bianco. Questo giallo non mi piace. Positivo, ma c'è qualcuno che vuole entrare. C'è qualcuno? Chi è? Avanti, buonasera. Quello che si chiama Pedone, no? Con la batteria, lo sento. Sì, ti copio, avanti, buonasera. Mi confondo con Diapolistena, dimmi tutto, buonasera. Io sto passaggio, la propagazione va e viene, di picchi di 9.30, al momento c'è un po' di propagazione, quindi ti accomodo. Puoi dire come ti chiami, da dove ti trovi, grazie. Perfetto, ci cambio, cambio, 1, 2, 3, prove, prove, prove, cambio. 1, Mike Tino 10, chiama da Mike Tino 10, operatore Francesco, cambio. Ciao. La pago 160. Io 4, continua così. Charlie, Trieste Amateur Radio, molto bene con tu. X10. Si vede che sono X10 e amicone di Taranto. Bellissimo. Attento Pasquale, eh. Per Pasquale. Buonasera Pasquale, qui Marco, Friuli Venezia Giulia, provincia d'Udine, arrivi come un tuono quassù, forte e chiaro. A te di nuovo, grazie di avermi fatto entrare. E un saluto anche a te Condor, anche tu arrivi 9.5, leggermente qualche disturbo, ma non c'è problema, arrivate tutti molto molto. C'è una buona propagazione evidentemente, sì, sì. Ottimo, vai di nuovo. Forse ci sono ancora gli amici qua, io vi saluto qua Marco dal Friuli, dal 351 e lì. Hola. Binario decimo, sentite piccolo cuffo. Buonasera Pasquale, vi saluta. Ho letto il messaggio, l'annuncio sul CB Baracchino Amico e ho fatto una girata qua per i saluti. Zappa dall'est Europa, est Europa, nelle belle terre ungheresi, qua dalla capitale ungherese, cambio. Via, salutando l'amico di provincia di Reggio Calabria, tutta una cosa bella qua, vediamo un po', vai. Vedi, via, tutti gli amici qua, tutta la ruota, quelli di Reggio, tutta una cosa bella, dai, piccolo buffo vi saluta, non so quanti ne siete. Positivo, ciao Condor, ciao all'amico. Salutate tutto Reggio Calabria qua, fatevela buona, buon proseguo, un abbraccio circolare, piccolo buffo. Ja, dann ist nur noch Geschreie und Gebrülle. Jetzt drehen sie alle ihre Richtanten in unsere Richtung. Ja, ja, sind gerade dabei. Cambio, cambio. Ja, da geht was, wa? Ah, hier ist Musik. Jo, alles so. Dann sehen wir noch ein bisschen später. Italia, Italia. Ciao, ciao, Italia. Non c'è. Io sono alla Germania del Nord. Vicino a Brema.